registrare il registratore, sì. Ma l'altoparlante dov'è? In che senso? Cioè, se io mi alzo in piedi e mi sento? Da lì su. Ok, però qui registra comunque, si sente sì, bene? Sì, sì, sì. Ok. Quando lei è pronto, lo sai. Ok. Che dite, cominciamo? Ma sì, possiamo cominciare. A nome della Libreria Claudio Augusta, un caloroso benvenuto, grazie per essere presenti stasera. Stasera presentiamo questo libro interessantissimo, direi, non tanta scienza, con questo nome che si divide in due, dove il curatore, il nostro Marco Passarello, ha chiesto a 8, se non sbaglio, vero, tra i ricercatori di punta dell'Istituto di Tecnologia Italiano, di raccontare quali secondo loro potrebbero essere gli sviluppi futuri in seguito alle loro competenze. E quindi sono emersi 9 racconti, mi corregga se sbaglio. Esatto. 8 racconti più uno in appendice. Con uno in appendice, quindi saranno 10, con visioni sul futuro molto sorprendenti e che Marco Passarello ci racconterà. Vi voglio ricordare anche i nostri futuri appuntamenti, in particolare quello di giovedì. Presentiamo Non uccidete i leopardi con Alberto Suigi. E venerdì abbiamo l'alimentazione in ambiente estremo con Donatella Polvara. Lunedì poi 16 sarà la serata di chiusura dell'anno della Biblioteca Claudio Augusta con la premiazione delle tesi. Vi lascio a tutta la curiosità e a tutto quello che ci sorprenderà con Marco Passarella. Grazie. Grazie di essere venuti. Dunque, io appunto sono Marco Passarello, da qualche anno sono qui a Bolzano come giornalista nella redazione del TGR. Comunque sono cresciuto a Bolzano, ho fatto le scuole qui, tutte quante. Poi sono stato a Milano dove ho studiato ingegneria e ci sono rimasto alla fine per una trentina d'anni. Però non ho fatto l'ingegnere, ho fatto il giornalista, mi sono occupato soprattutto di tecnologia. Ho lavorato nelle redazioni di Computer Idea e poi Computer Build. Poi come freelance ho scritto di scienza per la Nova 24, le sue 24 ore e altre testate, e alla fine sono approdato alla RAI a Bolzano. Però ho sempre avuto, parallelamente a questa attività giornalistica, una passione per la fantascienza che si è tradotta anche in qualche attività professionale. Da 20 anni faccio il consulente per Urania, che è la più celebre, più importante testata fantascientifica italiana del Mondadori, per la quale seleziono da 20 anni i romanzi che devono partecipare al premio Urania, e faccio anche altre cose. Ho tradotto insieme a mia moglie Silvia Castoldi vari romanzi di fantascienza, ho curato una rubrica di fantascienza per il mensile XL di Repubblica quando ancora esisteva. E insomma, ho sempre cercato di trovare uno spazio nella mia attività per la fantascienza, che è una passione che ho fin da piccolo. Fin da quando, diciamo, mi è passata la paura, perché inizialmente quando ero piccolo i telefilm di fantascienza come UFO mi facevano un po' paura. Quando ho raggiunto l'età di riuscire a guardarli, la fantascienza mi ha catturato. Ecco, io vorrei cominciare questa presentazione spiegando un po' cos'è la fantascienza, perché tutti diamo per scontato di conoscere che cosa sia, però ho l'impressione che molto spesso non si sappia veramente che cos'è la fantascienza, quantomeno non la si conosca approfonditamente. E la fantascienza è un po' modo di dire, spesso anche dispregiativo, roba da fantascienza, come quello spot che certi anni fa diceva: noi siamo scienza, non fantascienza. Ma in realtà, appunto, la fantascienza è qualcosa di molto sofisticato, di molto, molto variegato. La fantascienza si fa di solito cominciare con il celebre romanzo Frankenstein di Mary Shelley, questa ragazza, allora solo 19enne, che inventò da sola la fantascienza creando questa storia di un uomo artificiale. Il sottotitolo del romanzo era Il moderno Prometeo, e quindi a sottolineare che si tratta dell'uomo che in qualche modo si prendeva una prerogativa degli dèi, quella di creare la vita. Ed è un po' il tema importante, o comunque uno dei temi importanti della fantascienza, quello dell'uomo che osa qualcosa che va oltre quelle che sono le sue normali competenze, per così dire, corre questo rischio e si addentra nell'ignoto. La fantascienza poi ha i suoi precursori che tutti conosciamo, tipo H.G. Wells o Jules Verne, quelli che quando erano bambini io si davano ancora da leggere ai bambini, adesso credo che non si leggano più. Però comunque quella fantascienza appunto della macchina del tempo, della guerra dei mondi, oppure dalla Terra alla Luna e viaggio al centro della Terra. Però la fantascienza, così come la conosciamo adesso, forse nasce nel 1926, quando un editore lussemburghese, Hugo Gernsback, si trasferisce negli Stati Uniti e fonda una rivista che si chiama Amazing Stories, storie stupefacenti. E questa è la culla della fantascienza ed è una cosiddetta rivista pulp, dove pulp sta per fatta con una carta di polpa di legno, quindi con cartaccia. La pulp fiction, quella del film di Tarantino, sono racconti scritti su carta da poco, quindi insomma roba da intrattenimento, roba da due soldi, roba insomma a tinte forti. La fantascienza comincia così. Però in questo ambito, in questi scrittorini che magari cercavano di scrivere soltanto per mettere insieme il pranzo con la cena, però nonostante questo ci mettono delle idee, ci mettono qualcosa e la fantascienza cresce come genere. Negli anni 50 si parla di età dell'oro della fantascienza e lì la fantascienza comincia ad essere qualcosa che ha un suo pubblico e soprattutto comincia, sempre pur essendo avventurosa, avendo le astronavi, gli spaziali eccetera, a trattare dei temi che in qualche modo sono importanti, come appunto il rapporto con la tecnologia. E questo sfocia poi negli anni 60 in tutta una fantascienza che in qualche modo ambisce alla letterarietà o magari la raggiunge senza saperlo, come nel caso di Philip Dick, che negli anni 60 scrive tantissimi romanzi di fantascienza, scrive anche quelli veramente per sbarcare il lunario, scrive tantissimo, però alla fine i suoi romanzi, anche se lui alla fine questa fama se l'è goduta poco perché è morto giovane negli anni 80, è tuttora uno scrittore lettissimo, estremamente influente, è uno scrittore che è diventato in qualche modo mainstream, nel senso che fa parte della cultura con la C maiuscola. Nella stessa epoca, negli anni 60, c'è la cosiddetta New Wave della fantascienza britannica, vengono fuori scrittori come James Ballard, che anche lui comincia parlando di quei temi classici della fantascienza, parla di androidi, parla di distopie, ma gradatamente comincia a diventare uno scrittore conosciuto nei circoli letterari, arriva a scrivere appunto Crash, in cui il rapporto dell'uomo con la tecnologia, il rapporto malato, per così dire, arriva a descrivere appunto queste persone che si eccitano sessualmente con gli incidenti stradali, che ha fatto un film di David Cronenberg. Si comincia insomma a trattare dei temi in maniera che sfuggono all'avventura per entrare piuttosto nella psicologia, nella politica, in tante cose di questo genere. Un altro scrittore del genere invece è stato statunitense, Kurt Vonnegut. Anche lui parte come scrittore fantascientifico, scrive cose come Ghiaccio 9, un romanzo in cui si crea un particolare tipo di ghiaccio che rimane ghiaccio anche a temperature molto alte, che dovrebbe essere una gran bella cosa per fare cose tecnologiche, ma inavvertitamente distrugge tutta l'acqua della Terra e causa una catastrofe e distrugge il pianeta. Uno dei primi romanzi apocalittici, per così dire. E lui scrive anche però Mattatoio 5, in cui, che è scritto dal punto di vista di una persona che immagina o crede di essere prigioniera su un pianeta alieno, il pianeta Tralfamador, e di aver viaggiato nel tempo attraverso questi alieni. Però lui, attraverso questo romanzo di fantascienza, racconta la sua terribile esperienza in cui assiste al bombardamento di Dresda quando prigioniero, il soldato americano prigioniero in Germania, assiste al bombardamento di Dresda e lui racconta questa sua terribile esperienza di distruzione in questo romanzo. Quindi insomma, la fantascienza diventa letteraria. È il momento in cui anche in Italia gli scrittori letterari scrivono fantascienza. È una cosa che tendiamo a non considerare, ma due dei maggiori scrittori italiani del Novecento, Italo Calvino e Primo Levi, hanno scritto fantascienza. Hanno scritto fantascienza anche molto bella. Nel caso di Levi anche molto, molto vicina ai canoni del genere. Ci sono alcuni racconti di Levi, come Angelica Farfalla, che potrebbero tranquillamente apparire su Urania. Invece Calvino è più, diciamo, più immaginifico, lui parla sempre per metafore, per cui non so, lui parla del Big Bang, si immagina il Big Bang come un momento in cui tutta l'umanità era chiusa in un unico punto, e allora la signora vuole spartire a fare le tagliatelle e fa questo gesto per fare le tagliatelle e si dice il Big Bang. Lui sicuramente, Calvino, è poco scientifico nella sua fantascienza, ma è comunque sempre, oppure non so, c'è il racconto dello zio pesce in cui ci sono i rettili che si sono evoluti, ma insomma non questo zio pesce che non si è evoluto e di cui un po' si vergogna, no? Insomma, Calvino ha questa fantascienza meno scientifica, forse più conforme a quello che è la tradizione letteraria italiana, ma comunque anche lui fantascienza ne ha scritta e molta. E si arriva agli anni Ottanta, in cui c'è l'ultimo momento in cui in qualche modo la fantascienza ha un rapporto molto stretto con la realtà presente, perché c'è il cosiddetto cyberpunk, la letteratura che parla di internet, della rete, dei dati, una letteratura che è in rapporto strettissimo con quello che sta accadendo, perché sono gli anni in cui internet esplode, e esplode quella che sarà la civiltà che abbiamo adesso, quindi la globalizzazione, i dati come forma di ricchezza. E i romanzi cyberpunk descrivono questa cosa, e c'è proprio uno scambio per cui la terminologia dei romanzi di fantascienza viene utilizzata per parlare di cose reali, e viceversa i romanzi prendono termini scientifici e li mettono in narrazioni fantascientifiche. Quindi gli anni Ottanta sono questo momento in cui la fantascienza ha questo rapporto strettissimo con la realtà. Poi a questo punto succede qualcosa, però succede che arriva Guerra Stellari, arrivano i grandi effetti speciali, e allora c'è uno scollamento per certi versi. Cioè, la fantascienza in qualche modo vince, nel senso, cessa di essere una cosa molto di nicchia, diventa una cosa per tutti, per cui oggi tutti guardano fantascienza, o quasi tutti. Se vediamo i film che hanno maggiore successo al botteghino, vediamo che è quasi sempre fantascienza. Un grandissimo numero di successi del cinema americano sono film di fantascienza. E lo stesso per le serie televisive. Però molto spesso questa è una fantascienza molto edulcorata, come insomma quella di Guerra Stellare, una fantascienza che mette un po' di cose tecnologiche, un po' di astronavi, un po' di altre cose, ma sostanzialmente ha una base narrativa che invece è quella della fantasy, di un romanzo di capo e spada, di principesse, di imperi, insomma, qualcosa sicuramente molto divertente, ma forse che in cui va persa quella che era la parte di indagine, la parte profonda della fantascienza. La fantascienza letteraria invece, abbandonata dal pubblico, si rinchiude in un pessimismo che molti ritengono eccessivo. Però la fantascienza diventa sempre più distopica, sempre più negativa, sempre più a prevedere le sventure. E qui, a questo punto, parte la storia di questo libro. Perché circa 5 anni fa mi viene richiesto da Repubblica Sera, che è un sfortunatissimo e molto mal concepito supplemento digitale del quotidiano Repubblica, che nessuno leggeva, però comunque aveva bisogno, finché esisteva, di avere comunque dei contenuti che venivano prodotti, che nessuno leggeva, poi venivano, sparivano dopo una settimana, scomparivano nel nulla, però comunque qualcuno che scrivesse quello che c'è dentro ci doveva essere. E il sottoscritto è uno di quelli che producevano contenuti per Repubblica Sera, e a un certo punto la redazione mi chiede: ma dovresti farci un servizio su questa storia della fantascienza ottimista? E dico: cos'è la fantascienza ottimista? Non mi risulta che esista questa corrente della fantascienza. Però mi informo e scopro che è successo questo. Neil Stephenson, che è uno scrittore pubblicato anche in Italia, discretamente noto, il suo romanzo più famoso è Cryptonomicon, ha scritto anche L'era del diamante, Snow Crash, diversi romanzi pubblicati in Italia, e quello a un certo punto ha deciso che la fantascienza deve essere più ottimista. Lui adotta la cosiddetta, quella che lui chiama la teoria del geroglifico, cioè la fantascienza per lui è un geroglifico, cioè un simbolo che tutti riescono a capire e interpretare, e che in qualche modo mostra la direzione verso quello che potrebbe essere un mondo migliore. Secondo lui la fantascienza negli anni 50 e 60 ha avuto questa funzione. La fantascienza immaginava i viaggi spaziali, e qualcuno poi effettivamente è riuscito a realizzarli, ha costruito le missioni Apollo, è riuscito a raggiungere la Luna, e secondo lui questo meccanismo si è inceppato a un certo punto, e la fantascienza ha cominciato a essere pessimista, a essere negativa, e quindi noi non riusciamo più a compiere grandi imprese tecnologiche, a risolvere i problemi del mondo, perché non abbiamo una fantascienza che ci dica: guardate come sarebbe bello queste cose, quelle tecnologie si potrebbero fare, si potrebbero realizzare, si potrebbero risolvere. E allora cosa ha fatto Neil Stephenson? È andato all'Università dell'Arizona, e qui si è praticamente fatto fare delle previsioni dettagliate sul futuro dagli scienziati dell'università. Quindi gli scienziati gli hanno preparato degli scenari, hanno immaginato quelle che potrebbero essere le evoluzioni tecnologiche del futuro, e quando gli scienziati l'hanno fatto, lui ha chiamato un gruppo di scrittori molto noti e gli ha detto: partendo da queste previsioni scrivete dei racconti. E così è nata questa antologia Hieroglyph, che in Italia non è tradotta, con proprio questo intento polemico per dire basta, la fantascienza di adesso è troppo negativa, questa deve essere una fantascienza positiva. E allora io ho avuto l'incarico di chiedere a varie scritture di fantascienza, italiani e stranieri, cosa ne pensavano. Devo dire che la maggior parte mi ha detto che non era per niente d'accordo. E sì, io ero anche d'accordo con quelli che la pensavano così. Cioè a me sembra che Stephenson ha un po' invertito l'ordine dei fattori. Cioè non è che il mondo non riesce a risolvere i problemi perché la fantascienza è pessimista. Ecco, la fantascienza è pessimista perché è evidente che il mondo non riesce a risolvere i problemi, a garantire un futuro che possa essere credibilmente migliore del presente. E del resto, insomma, la fantascienza ottimista degli anni 50 e 60 non è più proponibile ora perché abbiamo visto meraviglie tecnologiche enormi realizzarsi, e però vedere queste meraviglie non hanno affatto risolto problemi, anzi spesso ne hanno risolto alcuni, ma ne hanno creati di nuovi, magari peggiori o comunque altrettanto difficoltosi. Quindi è molto difficile per uno scrittore immaginare dal 2020 quasi che una tecnologia magicamente risolva tutto. È difficile pensarlo nel presente. La maggior parte degli scrittori che ho intervistato erano d'accordo con me. Uno di quelli che invece era a favore di Stephenson, anche perché aveva partecipato agli Hieroglyph, era Bruce Sterling, lo scrittore che si può considerare padre del cyberpunk, che mi disse: no, a me questa idea di Stephenson è piaciuta moltissimo, sarebbe bellissimo se anche in Italia qualche istituzione scientifica si mettesse a collaborare con gli scrittori di fantascienza e producesse qualcosa. E questa frase mi è rimasta nella testa, mi rimbalzava, cioè effettivamente magari non è necessario fare proprio essere così programmaticamente ottimisti, però non sarebbe bello se degli scienziati potessero collaborare con gli scrittori e far vedere un po' che cosa viene fuori. Sarebbe bellissimo, specie qui in Italia, dove la cultura umanistica e quella scientifica dai tempi di Croce sono considerate due cose totalmente separate che non si parlano, e invece farle parlare potrebbe essere interessante. Però proprio per questo mi dicevo sì, ma dove vado io con questa proposta a ottenere ascolto? Cioè vado da un rettore di un'università e gli dico: ma mi aiuta a fare un'antologia di racconti di fantascienza? Dico: molto probabilmente mi dirà non siamo interessati. Un anno dopo però mi danno un altro incarico, questa volta è 924, il settimanale scientifico del Sole 24 Ore, che mi manda a intervistare Roberto Cingolani. Roberto Cingolani, professore scienziato, soprattutto è l'inventore, il creatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Questo istituto che riunisce tantissimi ricercatori, molto, molto conosciuto, anche per certi versi molto invidiato e oggetto di polemiche, perché insomma è un istituto che si è preso molti fondi per la ricerca che molti gli invidiano. Comunque insomma è uno sicuramente un decente di eccellenza della ricerca italiana. Io intervisto Cingolani, l'argomento è la robotica bioispirata, perché mi spiega Cingolani, la tecnologia di adesso e quella del futuro sarà sempre più bioispirata, cioè ispirata alla natura, perché la natura ci mette milioni d'anni, prova tutte le soluzioni e alla fine la soluzione che ha trovato la natura molto probabilmente è la migliore, perché sono state provate nel corso dei milioni d'anni tutte le soluzioni possibili, quelle che effettivamente sono ancora in uso vuol dire che funzionano. Quindi se noi vogliamo costruire un robot, un aereo, qualcosa, invece che cercare di partire da zero, possiamo vedere come fa la natura e sfruttare le sue soluzioni. Cingolani mi parla di questo, e al parlare di questo continua a mettere nelle interviste citazioni di fantascienza. Io scopro che ha letto tantissime fantascienza, anche autori non conosciuti dal grande pubblico, cioè non ha letto solo Asimov, ha letto anche tipo Ian Banks, autori del genere, che mi fanno capire che lui è un grande appassionato, comunque un grande conoscitore, ritiene la fantascienza una cosa che interessa allo scienziato. E allora dico, forse lui mi può aiutare a questa cosa. Passa un po' di tempo e io gli chiedo, ma mi potrebbe aiutare a fare un'antologia come quella che ha fatto Stephenson negli Stati Uniti? Lui mi risponde e dice, questo tipo di cose non sono per statuto fattibili, perché non possiamo finanziare cose che non sono ricerca. Però se tu vuoi che così ufficiosamente ti metta in contatto con dei ricercatori che sono disposti ad aiutarti a collaborare al progetto, questo si può fare. E allora questa era la cosa che veramente mi interessava, perché se c'è comunque un appoggio da parte delle istituzioni, ci sono dei ricercatori interessati, allora la cosa si può fare. Mi metto in moto. La storia dell'editoriale del progetto magari ve la racconto dopo, perché è abbastanza complicata e anche abbastanza triste, nel senso che comunque alla fine questo progetto è stato molto difficile riuscire a metterlo su carta, e comunque insomma non sono del tutto soddisfatto di come sono andate le cose, però comunque alla fine io mi metto a lavorare, trovo questi 8 scienziati che tra l'altro si occupano di praticamente tutto lo scibile umano. Abbiamo uno che si occupa di robotica, un'altra che si occupa di robotica è più ispirata come nelle imprese singolari, ma c'è chi si occupa di nanotecnologia, di tecnologia indossabile, di microscopia, di genetica, di medicina. E insomma, io le interviste, ci metto un po', faccio tutte queste lunghe interviste agli scienziati, le trascrivo e dopodiché comincio a cercare degli scrittori che siano disposti a scrivere dei racconti ispirati a queste interviste. Anche questo è complicato perché di solito per fare un'antologia di fantascienza si sceglie un tema, poi si prende un po' di scrittore, si dice scrivete sul tema, quando il termine è scaduto si vede cos'è arrivato, si buttano via i racconti venuti male, i ritardatari si lasciano perdere, si tiene quello che è arrivato. In questo caso chiaramente non posso far così, perché se lo scrittore parte, lavora su un'intervista che ha soltanto lui, poi comunque telefona al ricercatore per chiedergli lumi, per avere parere, cioè, ci lavora tantissimo e soprattutto tiene occupato anche il ricercatore, poi non posso dirgli no, guarda, il tuo racconto non mi piace, non va bene, ricominciamo da capo. Bisogna che lo scrittore, io sia ragionalmente certo che mi produca un racconto buono fin dall'inizio. Io alla fine mi sono veramente arrovellato nelle scelte, forse ecco, adesso che l'antologia è pronta, mi dispiace un po' di non, forse di non aver usato di più, di non aver provato con degli scrittori più nuovi o più particolari. Sono andato un po' sul sicuro proprio per questo. Devo dire anche che ho cercato inizialmente di non stare solo nel campo degli scrittori italiani di fantascienza, ma di cercare anche di allargarmi a scrittori non di fantascienza, ma che magari sono interessati alla fantascienza o comunque hanno scritto cose simili alla fantascienza. Per esempio ho chiesto a Tullio Goledo, ho chiesto a Laura Pugno, ho chiesto ad alcuni autori, diciamo, che sono più nell'area letteraria che non nell'area del genere fantascientifico. Mi è andato abbastanza male, diciamo, secondo me erano tutti un po' timorosi, perché alla fine si tratta di un compito molto specifico e quindi anche molti scrittori di fantascienza, di quelli che hanno scritto tante eccetera, mi hanno detto ma no, non me la sento, perché io non sono mica sicuro di riuscire a scrivere un racconto su una cosa così definita, così precisa. E quindi ho avuto le mie difficoltà. Ma alla fine i miei autoscrittori me compresi, perché alla fine c'era un'intervista che proprio nessuno voleva prendere in considerazione. E alla fine ho detto, beh, se nessuno la vuole, vuol dire è un segno, lo devo scrivere io questo racconto, e quindi ne ho scritto uno io. E alla fine abbiamo questi 8 racconti, che sono anche quello che mi piace di questa antologia, è che alla fine sono racconti molto vari, cioè ognuno ha adottato un approccio tutto diverso. C'è chi ha scritto proprio dei racconti molto letterari, con uno stile letterario, chi ha scritto racconti più con uno stile più secco e più da tradizione fantascientifica, c'è chi ha ambientato i racconti in un'epoca molto vicina e chi è andato molto lontano, chi appunto si è occupato di quello che il ricercatore parlava e chi invece è partito per la tangente e ha visto il tema da un'angolazione totalmente differente rispetto a quello che il ricercatore diceva. Comunque, i racconti sono qui. Io adesso che vi ho spiegato com'è nata l'antologia vorrei anche provare a leggervi qualcosa. Questo è un esperimento perché i racconti non li ho mai letti in pubblico, un paio di presentazioni sono state fatte ma senza lettura dei racconti. È stato un po' complicato decidere che cosa leggervi, perché chiaramente il racconto intero non ve lo voglio leggere per non rovinarvi la lettura del libro, e un po' anche perché sono un po' lunghi, alla fine penso che un senso. Io ho scelto di fare dei racconti sulle 40.000 battute per avere dei racconti, dare lo spazio per trattare l'argomento, però questo significa anche che la lettura sarebbe molto lunga. Quindi ho scelto alcune parti che mi sembravano rappresentative per far capire com'è il contenuto, spero che vi possano interessare. Io adesso magari per leggere mi siedo. Perfettamente, si è acceso l'immagine di iCube, che è perfetta per il racconto, perché appunto il racconto che voglio leggere è quello per primo, è quello che parla di robotica. Però devo fermare la presentazione. Ok, dunque, così. Ecco, dicevo, questo è iCube, è il robot che l'Istituto Italiano di Tecnologia ha prodotto, è diventato un po' lo standard di quello che è la sperimentazione robotica, cioè tantissimi laboratori anche al di fuori dell'Istituto Italiano di Tecnologia hanno comprato degli iCube e lo usano per la loro sperimentazione. Come vedete ha delle sembianze di bambino, perché alla fine è un po' un bambino robotico, è quello che potrebbe diventare in futuro un robot come noi lo immaginiamo, per il momento è un bambino a cui deve essere insegnato quasi tutto. Ecco, Francesco Nori è lo scienziato che se ne occupa, e tra l'altro adesso non lavora più all'Istituto Italiano di Tecnologia, è andato a lavorare per Google, e comunque ha raccontato appunto ad Alessandro Vietti, che è uno scrittore di fantascienza genovese, ha pubblicato due romanzi molto belli che sono Real Mars e Il Potere, editi da Zona 42, è venuto anche a Bolzano l'anno scorso a presentarne uno. Ecco, Alessandro Vietti ha scritto questo racconto che si chiama Piccolo corteo di anime inventate, perché questo racconto è scritto da tantissimi punti di vista e sono punti di vista dei dispositivi che popolano questo racconto, quindi non soltanto il robot ma anche tante altre cose che in qualche modo a cui viene dato uno sguardo, sono tutti oggetti in qualche modo intelligenti, e il racconto dice la sua storia passando dallo sguardo di tutti questi oggetti. Io vi leggerò lo sguardo dei primi due, che sono all'inizio del racconto, e così. E il racconto praticamente parla di un robot che arriva e viene portato in una casa per accudire una signora anziana. E insomma questo robot, diciamo, è un robot che deve fare soltanto questo, non è un robot particolarmente intelligente, ma entrando in una famiglia che, anche se non ce ne accorgiamo subito, è disfunzionale, il robot in qualche modo reagisce diventando disfunzionale anche lui. Quindi in qualche modo, insomma, vediamo che è sempre l'uso cattivo della tecnologia che causa il problema, non è la tecnologia cattiva. Questo è un robot assolutamente neutrale, però alla fine diventerà in qualche modo più umano proprio per il fatto di essere entrato in contatto con i vizi degli umani. Ma questo si vedrà nella seconda parte del racconto. Ora vi leggo la prima. E comincia con Io scatola. Che poi anche una bara in fin dei conti lo è. Capisco che questa cosa possa anche non piacerti, a me non fa né caldo né freddo, ma come negare che sia così? Che siamo fatte per custodire un mistero da svelare, una sorpresa, o per celare in eterno qualcosa che il mondo non deve vedere mai più, un cadavere. Siamo pur sempre scatole. Nella fattispecie devo ammettere che però io sono una strana via di mezzo, e non ho parlato di bara così tanto per fare effetto, perché la mia forma è quella, e non credo di sopravvalutarti se penso che tu abbia presente cosa intendo, anche se non sei abbastanza facoltoso per aver mai visto una confezione come la mia, davanti alla quale adesso stanno impalati questi due umani, un adulto in divisa e un ragazzino dallo sguardo strano. Attoniti, come può esserlo che si ritrova di fronte a quella che sembra una bara ma non lo è, anzi addirittura è qualcosa di più simile all'opposto di una bara, come il ventre di una madre, un'incubatrice, una portatrice di vita o di qualcosa che la simula. Peraltro in questa casa io ovviamente ci sono entrata piena e ci uscirò vuota, mentre per le bare succede il contrario, e anche in questo caso l'opposto ha un suo senso. Vedi che alla fine tutto torna? Quindi, insomma, mi trovo qui, in questo soggiorno pieno di luci, di superfici brillanti, di bianchi e metalli, schermi pellicolari e tappeti, persiani, poltrone vintage e diplomi al valore militare, oggetto di una consegna premium, mentre i due umani cercano di andare oltre il classico momento di sorpresa. Dei due è solo l'adulto a muoversi adesso. Normalmente in questi casi c'è entusiasmo, fervore e felicità, soprattutto proprio da parte dei ragazzini. Invece questo qui mi fissa immobile, le braccia conserte che stringono il collo di quello che sembra un orsetto, il viso scolpito in una strana espressione vuota, oppure troppo piena. La logica anagrafica vuole che siano padre e figlio, e non c'è motivo per non darle credito. L'adulto in divisa un po' di entusiasmo lo dimostra da come mi gira intorno e da come gli rimbalza la pistola sulla coscia, come nella scadente simulazione di una danza tribale, ma da come mi guarda e mi sfiora forse dovrei parlare più che altro di eccitazione. «Sarebbe questo il robot per la nonna?» ha esordito il ragazzino, ma senza muoversi. Si riferisce a me? L'uomo impreca. «Elia, sei idiota o cosa? Questa è la scatola, il robot è dentro!» Il ragazzino non fa una piega. «Alla nonna non piacerà. Alla nonna non piace nessuno. Perché non lo apri? Ricordati che non è un giocattolo. Che aspetti? Calmati! Prima bisogna controllare che sia tutto in ordine. Se è solo per questo, potete anche scansionare la retina sulla ricevuta. Non sono ammaccata e i sigilli olografici sono integri. Sono stata fortunata. Il più delle volte i corrieri se ne sbattono della scritta fragile tatuata un po' ovunque, perché non si riferisce a me, ovviamente. Ma c'è da dire anche che siamo preparati a esistere solo in funzione di qualcos'altro. Essere non soltanto sacrificabili, ma anche ammaccabili. È il modo unico che abbiamo per giustificare la nostra presenza, il nostro costo. Per aprirla è meglio se la mettiamo in orizzontale. Il ragazzino non si muove, come incantato o perso in qualche labirinto mentale tutto privato. Elia, ehi, sveglia, non volevi che l'aprissi? Forza, tienila sotto, così io la inclino e la metto sul tappeto. Ci sono pure le scatole che se le tirano, tipo quelle dei prodotti Peach. Cantano come sirene e si fanno chiamare package. Non sembra patetico anche a te? Se nasci bidone dell'immondizia, non è che puoi finire a fare il portagioie, perché lo sappiamo tutte che alla fine della favola è il contenuto che ci qualifica. L'ho già detto, perdonami. È che è un po' il nostro chiodo fisso, e se fosse il nostro posto, capiresti. Perché più noi siamo belle, più quello che sta dentro di noi è prezioso, e più il divario tra contenitore e contenuto aumenta, e nonostante tutto la nostra importanza diminuisce. Il contrario accade a poche, pochissime fortunate. Quindi, alla fine, pensi sia davvero tanto più desiderabile fare il portagioie piuttosto che il bidone dell'immondizia? E adesso, io, tablet. Sono uno che ha bisogno d'azione e questo limbo, scarico e buio, non fa per me. Adesso, prendila dalla tua parte e solleviamola insieme. Come un biglietto da visita, io sono la prima cosa che il cliente vede una volta rimosso il coperchio, e sia la luce, incastonato nel polistirolo, come certi preziosi amuleti ritrovati al collo delle mummie. Un tablet, per le istruzioni, le configurazioni e i controlli manuali. Non bastava un'app. Questo aggeggio è un bel po' più sofisticato di un'app. Quando finalmente il tizio mi accende, una ventata di calore irradia la mia cristallina trasparenza, come tornare alla luce dopo secoli di sepoltura. Fa sempre un bel effetto ricollegarsi a un wifi, come riprendere fiato dopo un'apnea abissale, scaldandosi poi nelle routine di avvio automatico con la clip di benvenuto, i complimenti per l'acquisto, il profilo aziendale, fino a inserisci i dati di registrazione e il numero di licenza che, come da istruzioni, l'adulto, nome Ivan Raventlov, nato a Milano il 21-12-2037, recita e conferma, diventando così ufficialmente Ivan il proprietario. Posso così cominciare il rito di cui io sono il sacerdote e lui il mio fedele, vale a dire, io impartisco le istruzioni e lui le esegue, come per esempio, rimuovi la protezione di polistirolo. I battiti del cuore del cliente aumentano sempre alla scoperta del sacco nero. Probabilmente c'entra la somiglianza con quelle dei cadaveri, ma è anche il morbido velluto realizzato a mano con sopra il tau argentato della Nori Fukunaga Mega Corp e la sigla X-Live 7. Cioè, non è velluto vero. Con le fibre riciclate e la manodopera mongola, la NFM riesce a fare cose che profumano di magnificenza, anche se valgono una nocciolina. Ivan procede con apri la cerniera e la sequenza è la solita. Prima compare la nuca, capelli neri diritti, quindi la schiena, nuda, bianca, lucida. Poi il codice a barre in corrispondenza dell'osso sacro. E infine il fondoschiena, nudo, bianco, lucido anch'esso. Ivan si ferma e lo tasta con la punta delle dita di una mano. Lo fanno tutti i clienti, sempre, ma oggi non c'è nessuno che sghignazza. «Me l'immaginavo più grande», dice il ragazzino. Ivan controlla il mio schermo, poi preme su «Fatto». Allora io dico «Ora afferra saldamente il robot con entrambe le braccia e tiralo verso di te fino a metterlo in ginocchio col sedere appoggiato sui talloni». «Posso farlo io», si intromette il ragazzino. È strano, sta sempre immobile e dalla faccia non trapela alcuna emozione, come nemmeno nei modelli iCap di primissima generazione. No, Elia, meglio che lo faccia io. Mentre Ivan esegue la manovra, Elia sbuffa e gira intorno al robot, probabilmente per guardarlo in faccia, e nel farlo non si cura di calpestare il coperchio della scatola rompendolo. Quindi è di nuovo il mio turno. Adesso devi eseguire l'imprinting dell'utente amministratore. L'utente amministratore è il proprietario dell'unità? Sì. Il robot spalanca gli occhi ed Elia fa lo stesso, insieme a un piccolo sussulto, come l'effetto di uno spostamento improvviso del cuore. Ivan, mettiti di fronte al robot in ginocchio e collima i tuoi occhi con i suoi. Ok, così. Ora pronuncia le seguenti frasi come se stessi parlando normalmente. Giro, giro, tondo. Questa è la parte che preferisco, come conoscere qualcuno di speciale in un bar, ritrovare un vecchio amico per la pelle, partecipare al proprio matrimonio. Vuoi tu questo robot finché assistenza tecnica non vi separi? Mi piace, anche perché poi posso lasciare campo libero all'unità. Buongiorno Ivan, pronuncia la macchina in ginocchio. Un cavaliere pronto per ricevere l'investitura? Uno schiavo in attesa di ordini? Una donna in procinto di slacciare un paio di calzoni? Il seno c'è, ma senza capezzoli. Sarà per quello che ai clienti non viene quasi mai da toccarlo, non subito perlomeno. Ivan invece sta sbirciando verso la vagina, un classico da parte dei maschi, ma in questo caso l'unità presenta il sigillo rosa, un po' come il tappo rosso nelle canne delle pistole giocattolo, tipico della configurazione dei robot privi di licenza sessuale. Sono qui per servirti. Non si smorzano le critiche alla NFM per la sua nuova stringa di benvenuto. La verità è che alimentare il desiderio di onnipotenza del cliente equivale a fargli sentire di aver speso bene i propri tanti soldi. Ivan, adesso devi decidere il mio nome. Scegliene uno familiare, quello che ti fa sentire più a tuo agio con me. Potrai sempre cambiarlo più avanti. Che ne pensi, Elia? Il ragazzino scrolla le spalle, bufonchia qualcosa. Sembra sempre in lotta con qualcosa dentro di lui. Ivan insiste. Allora, Robby. È una donna, Elia, non lo vedi? Dobbiamo dargli un nome femminile. Tipo Susanna? Non mi pare una buona idea chiamarla come mamma. Il ragazzino sospira e non aggiunge altro, prendendosi le braccia e premendosele contro il petto, come per proteggersi o trattenere qualcosa. l'algoritmo di Context Analysis commissiona una ricerca in rete, archivio anagrafico, cronaca locale, Susanna Martini, moglie del commissario Ivan Reventlov, il corpo è stato ritrovato nella vasca da bagno del figlio Elia di 9 anni, polsi tagliati, crisi depressive. Ho deciso, robot, ti chiamerai Eva. Ecco, vi volevo raccontare della storia editoriale del libro. Io, una volta parlato con Cingolani, ero un po' restio a partire, perché avrei voluto avere un editore alle spalle. Visto che appunto si trattava di fare un lavoro così complicato, mi sono detto, se posso dire, assicurare gli scrittori, verrete pubblicati da un editore, verrete pagati, perché di solito, sapete, penso che chiunque lavori nell'editoria sappia che i racconti in Italia vengono quasi sempre scritti gratis, a meno che uno non sia già un grandissimo nome, mi sarebbe piaciuto avere un editore alle spalle. Sono andato da alcuni editori, mi hanno risposto tutti picche per i motivi più vari, anche insomma con delle cose che non mi aspettavo. Il primo editore dove sono andato era Codice Edizioni, un editore scientifico che pubblica saggi scientifici e però di recente ha aperto una collana di narrativa. Ho detto, perfetto, se non me lo pubblicano loro. Sono andato da Codice e loro mi hanno detto, no guarda, non va bene per noi perché noi abbiamo questa regola che i libri di narrativa che pubblichiamo noi non devono avere niente di scientifico per non sovrapporsi ai saggi che pubblichiamo. E quindi niente. Ho coinvolto perfino Giulio Mozzi, che è stato qui a Bolzano pochi giorni fa, che mi ha dato la mano, mi ha aiutato a proporre il libro a editori grandi come Einaudi, Sironi, Marsilio, ma alla fine tutti rimanevano perplessi di fronte a questo libro. Alla fine sono andato a parlarne con Giuseppe Lippi, che allora era il curatore di Urania, lo è stato per più di un quarto di secolo, e lui mi disse, ma che bella idea, ma facciamo così, ma te la pubblico io questa cosa, la pubblichiamo su Urania, e se tu, a te dà fastidio il fatto che vada solo in edicola e dopo un paio di mesi sparisca, ti garantisco che una volta che l'abbiamo pubblicata su Urania, se vende bene, te la faccio pubblicare anche negli Oscar e la facciamo andare in libreria. Io con un endorsement così convinto ho detto, beh, a questo punto lo pubblichiamo, lo facciamo, e quindi ho cominciato a contattare gli scrittori, eccetera. Poi, mentre gli scrittori stavano già lavorando, io a quel punto sono andato, passati qualche mese, da Giuseppe a chiedergli un deadline, un termine per essere sicuro quando l'avrebbe pubblicato, eccetera, e lui però a quel punto mi dice, no guarda, ci sono un po' di problemi, Urania, è forse meglio se per il momento non cerco di vendere il tuo libro, perché ho l'impressione che in questo momento se facessi la proposta mi verrebbe rifiutata. Facciamo così, tu lo fai, quando è pronto per me sarà più facile riuscire a fartelo pubblicare. Io rimasi molto male per questa cosa. Quello che non sapevo è che in realtà Giuseppe era molto in difficoltà e nel giro di pochi mesi sarebbe stato estromesso da Urania e avrebbe dovuto lasciare la curatela che teneva da più di 25 anni. E quindi alla fine ci fu un nuovo curatore di Urania. Io poi, quando l'antologia fu pronta, andai a proporgli questa roba, lui mi disse, ma no, beh, perché gli italiani vendono poco, le antologie vendono poco, le antologie italiani vendono meno di tutto, e Urania in difficoltà sarebbe un rischio, e quindi insomma alla fine l'antologia su Urania non c'è andata. Ho passato un intero anno cercando di far arrivare questo libro in libreria, non ci sono riuscito. Alla fine la soluzione, visto che poi le interviste invecchiavano, avevano comunque un'attualità che non poteva essere lasciata svanire, dovevo comunque pubblicarlo, alla fine ho dovuto accettare di pubblicarlo senza distribuirlo in libreria. C'è questo, l'editore che lo pubblica è Delos Digital, è un ottimo editore, mi ha fatto anche un'ottima veste grafica, quella che vedete in copertina è la copertina di Franco Brambilla, che è lo stesso copertinista di Urania. La veste grafica è ottima, la distribuzione dell'ebook è eccezionale, però appunto il libro in libreria non si trova. Fa eccezione Bolzano, qui a Bolzano il libro si trova nelle maggiori librerie perché ce l'ho portato io personalmente e si può comprarlo in forma cartacea sui vari siti che vendono libri online, quindi Amazon, IBS, eccetera, eccetera, e ovviamente poi c'è l'ebook che si trova anche lì su Amazon, IBS o sul sito dell'editore, si può comprare in formato digitale, però appunto nelle librerie purtroppo non c'è. Questo è un po' un peccato perché il libro sta avendo un successo piuttosto buono, per essere un libro che non è distribuito in libreria sta vendendo piuttosto bene, tra l'altro ha avuto alcune inaspettate spinte, come per esempio Bruce Sterling, di cui abbiamo parlato prima, che è uno scrittore ancora rispettatissimo, vive da una decina d'anni a Torino, non più negli Stati Uniti, e lui era ospite a Lucca Comics. Io gli avevo mandato una copia del libro sapendo che lui si interessa di fantascienza italiana, e lui di fronte al pubblico di Lucca Comics mi ha fatto un grande elogio del libro di fronte al pubblico, alla stampa, che mi ha lasciato assolutamente basito, perché non me lo sarei mai aspettato. Quindi insomma, il libro qualche soddisfazione la sta dando. Io spero che venderà ancora, che anche se appunto nel libro non c'è, riusciremo a vendere un po' di copie. E adesso vi vorrei leggere qualcosa di del tutto diverso. Ecco, io appunto non... c'è stata anche qualche defaillance dell'ultimo minuto, gente che aveva cominciato a scrivere i racconti e poi mi ha detto non me la sento più, non mi sta venendo bene, non riesco a trovare niente, e quindi ho dovuto fare delle sostituzioni all'ultimo minuto. Alla fine l'ultimo scrittore che ho tirato dentro in questa impresa è stato Alessandro Forlani. Forlani è uno scrittore molto diverso dagli altri, perché è uno scrittore che ha una base molto poco scientifica. Lui è uno scrittore che anzi scrive una fantascienza molto contaminata. Lui ha vinto il premio Urania, ma l'ha vinto con un romanzo mezzo fantascienza e mezzo horror che si chiama I Senza Tempo, una storia di fantascienza ambientata nel futuro, però di vampiri. E lui fa sempre questi mashup in cui mescola generi, mescola la fantasy, l'horror, la fantascienza, e quindi mi sembrava uno scrittore poco adatto. Però è uno scrittore che scrive anche molto bene, e soprattutto uno scrittore con una scrittura molto letteraria, quasi, quasi gaddiana. E ho deciso di fidarmi di lui e sono molto contento, perché mi ha scritto questo racconto per certi versi alla Italo Calvino. Lui è partito da uno spunto di Atanasia Atanasio, una ricercatrice che studia la plastica e cerca di studiare, di trovare una plastica che sia biodegradabile, che non sia come quella di adesso che sta inquinando i mari e tutto quanto, perché non si distrugge del tutto e che è un problema per l'inquinamento. E lei cerca di trovare una plastica che sia totalmente biodegradabile, che può seppellirla e si distrugge senza nessun problema. E lei in queste ricerche ha anche un progetto più avanzato, che è addirittura quello di una plastica totalmente organica che cresce. Cioè, invece che fonda, la mette negli stampi, questa plastica che viene nutrita e cresce come se fosse una pianta, un essere vivente. E quando si è raggiunta la forma voluta all'interno dello stampo, a quel punto si blocca la crescita e c'è un oggetto di plastica che però è cresciuto in maniera organica. Questo poteva essere uno spunto che poteva essere utilizzato in molti modi. Alessandro Forlani l'ha utilizzato in una maniera veramente insolita, cioè ha immaginato questo vecchietto che sta in un ospizio, dove ci sono tutti questi oggetti che sono cresciuti in questo modo, sono fatti di questa plastica organica che cresce. E lui ci si affeziona, e quando insomma il televisore a cui lui ha dato un nome, un televisore Sony, e lui l'ha chiamato Sonny, questo televisore gli si rompe, lui rimane male, perché per lui è come un animale da compagnia, e dice: ma come, non possiamo buttarlo via, gli dobbiamo almeno fare il funerale. E adesso vi leggo qualche pezzo di questo racconto, che si chiama appunto La cura delle cose, di Alessandro Forlani. Allora, salto il primo paragrafo. Sonny era stato il primo coltivato a entrare a Villa Azzurra. Il futuro aveva aperto le porte Liberty dell'ospizio e usurpato la sala mensa al vecchio Samsung con schermo al plasma. Piatto, ellissoidale, 70 pollici di lucidissima chitina nera e lunghi cavi di cartilagine che radicavano nel pavimento. Il commesso all'Ipertroni disse loro che non si sarebbero dovuti preoccupare degli strani scricchiolii che avrebbe fatto quando era spento. Era lo schermo a cristalli vivi che si stava rigenerando. Impararono i colori e che cos'era l'HD. La realtà divenne loro solo un pallido acquarello. Abbandonarono la sporca plastica, si entusiasmarono i coltivati e mano a mano sostituirono l'artificiale con il biologico, accessori e arredamento più vitali dei degenti. Perché il racconto è ambientato, come dicevo, in una casa di riposo. Era accaduto 10 anni prima, ma che trascorsero molto in fretta. Anche Sonny si ingrigì. Restò più giovane, ovvero nuovo, di molti ospiti dell'istituto, che inebetirono e poi morirono con sottofondo di spot e serie. Soffrì il tempo e qualche guasto, come Alessandro li sopportò. I disturbi catodici, i problemi cardiaci, fronte a fronte, in certe sere, fossero stati persone entrambi o viceversa entrambi TV a colori, si spegnevano e intristivano della stessa obsolescenza. La sua cassa color notte si smorzò in un melanzana, si macchiò marrone scuro, i cavi elastici si attorcigliarono in cordame rinsecchito e lo schermo, in qualche modo, sembrò loro appesantito. Il rumore dei cristalli, soprattutto nottetempo in inverno, divenne il sibilo penoso e lungo di una vescica che si sgonfiava. Finché un mattino la direttrice uscì a bordo del suo SUV coltivato, carezzando la portiera come il collo di un cavallo. Annunciò agli anziani tristi che sedevano in giardino che l'indomani le avrebbero consegnato una TV appena nata, nuova, giovanissima. Sussurrò: partiamo piccola, all'automobile, mise in moto e partì. a quel nuovo 100 pollici di nidiata Panasonic, decenni prima si usava dire che mancava la parola. Sonny invece divenne un ospite di Villa Azzurra, dimenticato, lasciato a sé come era anche Alessandro. Ricollocatelo in biblioteca, la direttrice lo accontentò. Lui lo usava, soprattutto se trasmettevano vecchi film, i film veri di una volta, quando il cinema era cinema sul serio e produceva inoppugnabili capolavori, l'arte degli Avengers, Star Wars, Transformers, Mad Max. Insomma, era un uomo vecchio con cui un vecchio coltivato raccontava vecchie storie, gli faceva tenerezza. Era sicuro di farne a lui, con i suoi cristalli, la sua chitina, i suoi circuiti cresciuti e vivi, non gli sembrava così improbabile che nutrisse sentimenti. Forse istinti, ma è lo stesso. Gli ho dato un nome. L'ha mai capito? Sulla cassa c'era il logo della ditta costruttrice. Voglio aggiungerci una N, gli sembrò suonasse bene, perché ogni cosa che nasce e cresce dovrebbe avere un bel nome proprio. Alessandro si abbandonò nella poltrona di fibra d'alghe, chiese a Sonny di accendersi, la TV non rispose. Marisol entrò coi droni che sciamarono ai tappeti e lo sorprese inginocchiato sull'apparecchio che insisteva si attivasse. «Per la Madonna! Capo, è morto!» Il donnone lo calmò. «Ieri sera ci ho guardato Fast and Furious 27, poi si è rotto, fumo bianco, ho sospirato e non si è più acceso. Avrà un guasto, si ripara!» La direttrice mi ha detto no. Lei si strinse nelle spalle, una smorfia indifferente sul suo viso color ocra, ori e ciondoli del Cristo luccicanti di sudore. «Non conviene ripararlo, costa troppo. Lo buttiamo!» «Credo sì!» Lui bollì, tremò di rabbia, pestò le spazzole sul pavimento, uscì furioso, salì le scale, corse al piano degli uffici sotto lo scroscio di sguardi strani, spaventati e inebetiti dei vecchietti gobbi e inermi che vagolavano per il palazzo. Picchiò alla porta laccata bianca con la targa direzione. Il signorino Pierlapo Brian, il segretario di sua maestà, protestò che la signora era al telefono sti cazzi e mazzi, arricciò i baffetti a punta, lo tirò per la vestaglia, ma Alessandro sfondò dentro con il fuoco nella pancia. Era madito, sfiatato. «Non si può buttare e basta!» «Le sembra il modo? Va seppellito!» «Di chi parliamo? Del nostro Sonny!» «Non lo conosco! La TV vecchia!» «Ma è quello che faremo!» squillò la direttrice. La poltrona coltivata l'abbracciò di cheratina, dei riflessi di corallo come la tinta dei suoi capelli. «Mi prende in giro!» «Ma si figuri! Però ha un'idea piuttosto strana dei prodotti coltivati. Sono organici, non vivi!» «Ma i cristalli!» «Ma no, ma che è una trovata pubblicitaria!» Pierlapo Brian tornò stizzito, con un bicchiere di minerale. Sulla soglia dell'ufficio, come i piccioni su un cornicione, si accalcarono Omarell che pispigliavano. «Cos'è successo?» La direttrice si alzò in comizio sugli osteotacchi di 15 centimetri, tintinnò gesticolando bracciali e ciondoli etnocoltivati che le splendevano sui seni sodi, metà canova, metà chirurgo. Il tailleur gelé medusa coltivato in cuvée Chanel accentuava il naturale ultravioletto del suo viso ritoccato, il Lancôme dei coccinelle sul Goodyear delle labbra. I coltivati sono prodotti con polimerici a base organica che crescono da soli. I miceli, per esempio, sono funghi, possono crescere nel sottosuolo per chilometri quadrati. Sono fatti in materiale fibroso che contiene polimeri, per esempio chitina. Li si coltiva, perciò si nutrono e il nutrimento che loro viene dato ne determina diverse proprietà. Possono crescere più o meno densi, duri, malleabili, senzienti in qualche modo. Fino a che, le rese forte, non diciamo assurdità, ne si interrompe la crescita con i raggi ultravioletti o in un forno. È crudeltà. Ma è per farne degli oggetti. Tutti i robot, anni or sono, si fabbricavano in metallo e plastica. Ora li seppelliamo e aspettiamo si biodegradino. Però nessuno li crede umani. Sono macchine. Chissà. Va bene, io avevo preparato qualche altra lettura, ma sono già quasi le 7, quindi penso che forse potremmo passare alle domande del pubblico e sentire se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Dunque, qui non c'è più la signora. Cosa facciamo? Vado col microfono. Ah, ce l'ha lei, perfetto. Io ho seguito ultimamente le conferenze di Federico Faggini, che sappiamo chi è, l'inventore del microchip, ha avuto il suo spazio enorme negli Stati Uniti con Intel, insomma, ha cambiato il mondo. E lui attualmente sta facendo delle ricerche. Le vorrei definire filosofiche più che scientifiche, sulla coscienza delle macchine, dei robot, dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la consapevolezza non sarà mai possibile per queste macchine. Non mi è venuto in mente, mentre lei leggeva il racconto sul robot che entra nella famiglia, che potrebbe essere una sorta di possibilità di un nuovo racconto, oppure insomma è una cosa molto intrigante questa. Sì, è vero. Io ho intervistato Faggini alcuni anni fa e mi ricordo che lui era molto scettico riguardo alla possibilità di avere una vera intelligenza artificiale, soprattutto una coscienza artificiale. È un problema assolutamente aperto, perché effettivamente soprattutto noi non sappiamo ancora cos'è la nostra coscienza, quindi non sapendolo difficilmente possiamo dire se è riproducibile oppure no. C'è comunque chi sostiene che, essendo il nostro cervello un oggetto fisico, in qualche modo ha proprietà che in qualche modo devono poter essere riproducibili. Chi sostiene che la coscienza è una cosiddetta proprietà emergente, quindi non è qualche cosa che noi dobbiamo andare a prendere in un posto definito. Quando c'è un sistema sufficientemente complesso che è in grado di interagire col mondo esterno, in qualche modo la coscienza viene fuori come conseguenza della complessità dell'interazione con l'esterno. C'è chi invece che ritiene che no, che il segreto della coscienza del cervello umano sia nell'imponderabile, sia in effetti quantistici che ancora non conosciamo bene, quindi sfuggono alla perfetta determinazione e prevedibilità. C'è anche comunque chi fa notare che ogni cervello umano è diverso, e quindi insomma, anche se magari riuscissimo a produrre un artificiale, il sogno che c'è in una serie televisiva come Altered Carbon, che la nostra coscienza si possa togliere, spostare e mettere in un supporto più duraturo, non è fattibile, perché la nostra coscienza è in qualche modo anche la nostra fisicità, il nostro cervello è quello che è e noi non possiamo riprodurlo e da un'altra parte continuare a essere noi stessi. Sono cose di cui la fantascienza si occupa tantissimo. Adesso, in questi giorni, è uscito proprio un romanzo di Ian McEwan, che non è un autore di fantascienza e che ha badato bene dire che il suo non è un romanzo di fantascienza, però parla di intelligenza artificiale. E questo è uno dei fenomeni per cui in effetti la fantascienza ormai è un qualcosa di cui si occupano sempre di più anche appunto gli scrittori noti, gli scrittori letterari mainstream, però badano bene a non dire di scrivere racconti di fantascienza. Però comunque quello dell'intelligenza artificiale è un tema che la fantascienza ha toccato tantissimo ed è sicuramente toccherà ancora molto. In questa antologia ce n'è molto poca, perché i ricercatori che ho interessato non si occupano di intelligenza artificiale. Quelli che si occupano di robotica si occupano però della robotica, però del robot come, diciamo, del corpo del robot, quindi come fare in modo che sia sensibile, che si possa muovere, che possa prendere in mano qualcosa, che possa capire gli ordini degli esseri umani. Però la coscienza del robot, questo ancora i ricercatori dell'istituto non ci stanno lavorando. L'ultimo racconto che ha letto, ma si sente lo stesso, penso. L'ultimo racconto che ha letto deriva sempre da un'intervista ad uno di questi ricercatori che si occupava quindi di... Sì, l'avevo detto, si occupa di plastica e in particolare di... Cioè, questa ricercatrice, una, l'unica ricercatrice, Atanasio si occupa di plastica, in particolare cerca di ottenere intanto una plastica biodegradabile, e poi mi ha confidato questo suo progetto, che è più fantascientifico ma che lei ritiene sia realizzabile, di una plastica che non solo sia organica e quindi biodegradabile, ma addirittura che sia in grado di crescere, quindi visto che è organica possa crescere così come crescono cellule e un corpo organico, fino a che noi decidiamo che deve smettere. E, tra l'altro è buffo, perché la maggior parte delle persone a cui ho fatto leggere l'antologia, quando gli ho parlato di questo spunto, mi hanno detto: ah, questo è subito, hanno immaginato che questa plastica non smettesse più di crescere. E quindi quasi tutti sono immaginati un racconto apocalittico da questo punto di vista, una plastica che in qualche modo cresce e invade il mondo. No. Del resto c'è proprio un termine, nella fantascienza c'è un termine che si chiama grey goo. Goo praticamente vuol dire in qualche modo muco grigio, ed è praticamente quello che si ottiene secondo la fantascienza catastrofica se tu crei qualcosa che si replica infinitamente. Alla fine questa cosa si mangia tutto quanto e ottieni un pianeta che è tutto coperto di questa cosa e non c'è niente altro. E quindi questo è un rischio che la fantascienza ha sicuramente preso in considerazione, però invece questo autore ha voluto mettere la cosa da un punto di vista più umanistico, e quindi insomma ha visto la cosa dal punto di vista dei sentimenti della persona, che in qualche modo vede un oggetto vivo e gli attribuisce dei sentimenti, perché effettivamente questo televisore nel racconto non sembra avere dei sentimenti, è un televisore, è tutto nella mente del protagonista, questo fatto che in qualche modo sia un essere vivo e sia necessario seppellirlo. Quindi la plastica che cresce non se l'è, cioè non è la parte di Fanta, no, dello scrittore, è la parte E infatti quella è la parte scientifica, quantomeno... Cioè, forse non esiste, ma è un'ipotesi o qualcosa... È un'ipotesi su cui questa ricercatrice dice che sta lavorando, per adesso però non ci sono prototipi, è solo un'ipotesi. Lei invece diceva che questa plastica biodegradabile pensava nel giro di qualche anno di riuscire a produrre qualche cosa che potesse essere sperimentato. Qualche altra domanda? Io un po' diciamo non strettamente pertinente, le volevo chiedere, già che lei sa tanto, io ho degli amici che vivono in Cina, dicono che là comunque si legge, si scrive tantissima fantascienza. È assolutamente vero, io quest'anno sono andato alla WorldCon, che è la convention mondiale della fantascienza, che quest'anno si è tenuta a Dublino, e la fantascienza cinese è molto considerata perché sta crescendo tantissimo, soprattutto è in qualche modo sostenuta dallo Stato la fantascienza cinese, perché in Cina si ritiene, è un po' come la teoria del geroglifico di cui ho parlato all'inizio, in Cina si ritiene che la fantascienza, anche se magari non influenza direttamente la scienza, però... attrae le persone verso la scienza, quindi se una persona ha letto fantascienza magari da giovane sarà più interessato e più portato a frequentare facoltà scientifiche, a interessarsi di scienza. E addirittura alla WorldCon c'è stato un panel sulla fantascienza cinese e alla fine uno dei partecipanti mi ha detto: la fantascienza in Cina è cool, è talmente cool che gli scrittori letterari cercano di scrivere anche loro fantascienza e poi si arrabbiano perché noi non li prendiamo in considerazione, che in Italia è veramente il mondo alla rovescia, questo, che gli scrittori di fantascienza si lamentano sempre dell'assoluta mancanza di considerazione del mondo editoriale, come effettivamente vi ho anche raccontato. Questo libro alla fine io nel mondo editoriale non sono riuscito a farlo prendere in considerazione. Ci sono comunque già dei romanzi di fantascienza cinese tradotti in Italia, c'è la trilogia dei tre corpi di Cixin Liu, che secondo me è molto bella, molto interessante. È anche un, penso, per l'appassionato di fantascienza è bello perché per certi versi, anche se parla di scienza estremamente moderna, per certi versi è uno stile che ricorda certe vecchie fantascienze degli anni 60, ricorda Arthur Clarke, scrittori di questo tipo. La trilogia la pubblica Mondadori, e questo fa vedere come la fantascienza cinese sia diventata importante. È una trilogia di tre grossi volumi e Mondadori l'ha pubblicata negli Oscar, e poi ci sono diversi altri autori, quelli magari pubblicati da case editrici più piccole. Future Fiction pubblica Ken Liu, che in realtà non è proprio un autore cinese, è un autore sino-americano, però ha mantenuto forti, anche se scrive in inglese, ha mantenuto forti rapporti con la Cina, ed è un autore molto bravo, molto, molto interessante. Sicuramente fantascienza cinese la vedo molto in crescita, del resto anche Netflix ha fatto un, adesso non mi ricordo come si chiama il film, però è qualcosa tipo La Terra Vagabonda, ha pubblicato un colossal cinese di fantascienza, tratto sempre tra l'altro da un romanzo di Cixin Liu, questo della trilogia dei tre corpi, e quindi anche nel cinema la fantascienza cinese sta esplodendo. Beh, del resto gli scrittori di fantascienza molto spesso hanno avuto delle visioni che poi si sono effettivamente rivelate nella realtà. Io ricordo, per citare il romanzo di Urania, quando eravamo ragazzi, alla fine degli anni 50, primi anni 60, ricordo un romanzo che ipotizzava la fine dell'umanità perché tutti i cittadini del mondo vivevano in una stanza isolata col computer allora, e i rifornimenti di cibo, di tutto, arrivavano tramite una specie di posta pneumatica che poi divenne anche quella realtà, e la gente non si muoveva più di casa, quindi i contatti umani non c'erano più. E mi ricordo questo romanzo mi aveva colpito particolarmente, perché non avendo più contatti veniva quasi un senso di repulsione nel conoscere altre persone. E poi ho letto altre cose che si sono poi avverate, no? Per esempio l'orologio con cui si parlavano gli interstellari, per carità, però... Sì, certamente, diciamo, le previsioni della fantascienza raramente sono precise al millimetro, però spesso sono sorprendenti. Pensiamo, per esempio, c'è un racconto di Murray Leinster, un logico di nome Joe, che è un racconto degli anni 30, in cui ci sono le persone che hanno in casa un terminale su cui possono chiedere informazioni, e internet, né più né meno, insomma, e... Pensato agli anni 30, quando non solo non c'era internet, non c'erano nemmeno i computer, Però già c'era questa cosa. Poi è chiaro che certe volte le previsioni sbagliano su alcune cose. Per esempio i romanzi cyberpunk di cui parlavo, quelli degli anni Ottanta, quelli hanno in qualche modo fatto da annuncio all'era di internet, però a leggerli adesso lasciano perplessi, perché alcune cose, per esempio, in queste persone hanno accedono a internet mediante realtà virtuale, c'è qualcosa tipo Second Life, non so se la conoscete, un'interfaccia quindi in realtà virtuale, però all'ennesima potenza, quasi indistinguibile dalla realtà. Però se vogliono farlo gli serve una presa del telefono, perché non c'è il wifi, non ci sono i cellulari, e quindi hanno queste cose, queste tecnologie che sono estremamente potenti anche da un punto di vista attuale, però poi serve la linea telefonica, perché l'autore non immaginava che si sarebbe potuto trasmettere i dati senza filo così rapidamente. Per esempio, sono quelle previsioni che a volte si avverano, a volte no. Io faccio anche l'esempio, per esempio, quando uscì I primi uomini sulla Luna di H.G. Wells, lui fece andare sulla Luna le persone usando un materiale, la cavorite, creato dal professor Cavor, che annulla la gravità, e quindi loro con questo materiale vanno sulla Luna. E quando Jules Verne, che aveva scritto Dalla Terra alla Luna, lesse questa cosa, si arrabbiò moltissimo. Dice: ma come? Io ho fatto un romanzo così preciso, il cannone, ho calcolato il peso che doveva avere e tutto quanto, eccetera, e questo fa andare la gente sulla Luna con l'antigravità. Però se guardiamo le cose adesso, dalla Terra alla Luna ci sembra antiquato, perché alcune cose sono evidentemente impossibili, cioè le persone vengono sparate con una cannonata. Noi sappiamo che se mettiamo delle persone in una palla di cannone e poi le spariamo, magari la palla di cannone arriva sulla Luna, ma le persone dentro sono ragù, perché comunque non possono, se dai tutta l'accelerazione in un colpo, nessun corpo umano può resistere. Così come anche il ritorno, giustamente Jules Verne evita di farle atterrare sulla Luna, perché non avrebbe saputo come farle ripartire. Da questo punto di vista, dalla Terra alla Luna è realisticissimo, perché fa una missione un po' come quella dell'Apollo 15, che Apollo 13, scusate, quella che si vede anche nel film, che si è rotto, è esploso in modo, mentre stavano andando sulla Luna, e loro hanno fatto mezzo giro intorno alla Luna, sono tornati verso la Terra e poi sono riusciti a tornare. Funziona molto realisticamente così, dalla Terra alla Luna di Verne. Però poi alla fine, quando scendono giù, senza retronate, senza niente, non dovrebbero poter sopravvivere i passeggeri. E lì Jules Verne glissa, dice: ma sì, hanno avuto fortuna, gli è andata bene sia alla partenza che all'arrivo. Lui mostra di rendersi conto che c'è il problema, però fa finta di niente. Invece forse appunto un qualcosa di antigravità adesso non ce l'abbiamo, però per certi versi un romanzo con cui si va sulla Luna con l'antigravità forse ci sembra più plausibile di uno che ci manda con una cannonata. Quindi insomma, dipende anche dall'epoca, quello che è più plausibile, più veridico, quello che non lo è. Se facciamo un altro esempio, Asimov nei romanzi della Fondazione fa vedere un apparecchio che si chiama Transcriber, che praticamente tu parli e lui trascrive la conversazione, che per gli anni 50, quando è stato scritto il romanzo, è una cosa pazzesca, e si è avverata, perché noi oggi ce l'abbiamo, non ci meravigliamo, ma col cellulare o col computer lo scriviamo sotto dettatura. Però l'apparecchio di Asimov scriveva su carta, quindi se uno faceva un errore doveva buttare il foglio e ricominciare da capo, perché lui poteva immaginare un apparecchio che trascrive le parole dette, ma non poteva immaginare una memoria che le tiene in mente e può modificarle. Quindi insomma, le previsioni della fantascienza sono sempre un po' imprecise, però sicuramente sono spesso molto più accurate di quanto uno immaginerebbe. Se non ci sono altre domande, penso che posso salutarvi. Se qualcuno vuole acquistare una copia del libro, laggiù ce ne sono, prezzo speciale per la presentazione 15 euro invece che 17, e se no lo trovate in ebook online a 3,99 euro. Ringrazio tutti per essere venuti. Grazie.